Pensate di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Bueno, amigos, aquí el dúo de cantantes. Un momento. ¿Estás preparado? Estamos. Hay que darlo todo, ¿vale? Lo damos todo. Vale. Música, maestro. Nosotros hacemos los coros. Da discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei ya non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato, era stare al mio confronto, era statico sdranato, ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca, so la vista già volata, lì peligrosa passata, ho la gialla riferata senza fiato, ho la gialla queste braccia da cascata, è una corda innamorata, e nel fiace l'ho boccata e me l'ho fatto martellata. Oh yeah, se dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa, ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. Ok. E poi che avresti di speciale che in un altro non c'è? Che idea? Speciale. Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Senza avere mai le cose che pretendi e scusa in cambio sposo tu che dai. Allora, duro lo sport. Franco Pietrino, autore di questo programma, Roberto Scaltretti in regia, Alessandro Marco Tulli, il professore in redazione. Duro lo sport in tempo di nazionale d'autunno. Ci proviamo con una grande esibizione che abbiamo appena sentito di Llorente, che canta nel programma El Hominguero su Antena 3 in Spagna. Ciao Pierluigi Pardo. Oh, come va? Vuoi cantare anche tu? Forse sarebbe il caso, eh? Che idea, cara idea, non vedi che lei non ci sta, che idea. Ah, la sai, parlando di uno dei capisaldi, del quattismo romano, al quale io quindi o vai avanti a cantare per due ore, quale idea, o parliamo di Kovacic che ruba la scena a Londra, in Argentina, Croazia, perde la partita contro Tevez che entra al sedicesimo della ripresa e gioca anche bene. Come vuoi, parlare dell'intervista sulla Gazzetta, Zaza tutto tondo, il sesso senza amore non mi piace granché, come mi aveva detto la mamma peraltro. No, ma infatti il sesso senza amore non piace a nessuno, eh? Nessuno, neanche a Zaza. No, non piace a nessuno, no. Infatti non. No, vuole innamorarsi. L'unico settore che non conosce crisi, diciamo. Sì. Oltre al cibo, devo dire, la cucina. Chiamo Paolini, cosa dici? Beh, la cucina senza amore, ecco, potremmo fare una cosa, la cucina senza amore, sai, quando mangi delle cose cucinate male, no? Sì. Solo per nutrirti, per alimentarti, sì. È abbastanza simile al sesso senza amore. Come si faceva noi da piccoli. Poi l'immancabile mercato. L'immancabile mercato. Sì, ce l'abbiamo, ce l'ho. Sì. Ce l'hai. Il derby spiato dal buco della serratura come guardoni vogliosi, ma ci sarà da aspettare ancora un po' prima di aprire quella porta. Sì. E infine preparati, perché nel 2018 vai in Russia ai mondiali, ed è confermato. Nel 2022 vai in Qatar, non si sa se è d'estate o d'inverno. La FIFA ha confermato, ha detto, ma sì, ci sono stati episodi di corruzione, ma in fondo abbiamo già fatto, quindi non stiamo lì a cambiare le cose, che non abbiamo voglia. Sì, ma questo fa parte, è in pieno stile FIFA, se posso permettermi, nel senso che comunque non è che la FIFA faccia molto per dribblare ogni ombra, ogni sospetto, insomma, ogni tanto finisce borderline, vabbè, dai, che ti devo dire, speriamo soltanto che questo mondiale, se veramente verrà confermato lì, possa essere giocato in delle condizioni accettabili, quindi non so quando, forse a gennaio. Sì. A gennaio, ma tanto abbiamo tempo per scoprirlo da qui al 2022, sai quanta strada. 800 24 00 24, numero verde, ci fermiamo per il traffico, poi aspettiamo voi, ma soprattutto aspettiamo un sacco di ospiti, a cominciare, io credo, da un allenatore di Serie A. Tutti convocati. Papa mi piace. Il Papa sì, perché ha trovato secondo me un modo per coinvolgere tutti. Si è adattato anche lui alla vita moderna. È simpatico, sì, sembra una persona normale, alla fine lui è il Papa. Sì, lui è il Papa, caro Simone Zazza. Dunque, gli piace il Papa, non gli piace il sesso senza amore. E gli piace molto anche un'altra cosa, Zazza. Nutella anche adesso non la compro perché sono finita. Mamma mia, Nutella. E gli piace la Nutella e non gli piace cosa? Sai dove mi piacerebbe andare? Madagascar. Mi piace il nome, Madagascar. Se inventano qualche aereo che in un'ora e mezza sta là, però è difficile. No, impazzisco tutte quelle ore in aereo. Però vedi, con la nazionale ho preso l'aereo. E che fa, che devo fare? Non lo devo prendere. I treni passano una volta, poi passava l'aereo. Che faccio? Lo prendo. Vorrebbe andare in Madagascar perché gli piace il nome. Tu dovresti andare perché ti piace il nome, Pierluigi. Io vorrei tornare a Cape Town. Perché ti piace il nome? No, perché mi piace, lei, piace il posto. Sai, come Cape Town. Però no, in Australia, dove non sono mai stato. Ecco, di posto non sono mai stato, vorrei andare in Australia. Ho sempre invidiato molto i giornalisti di tennis, pochi in realtà, perché insomma la crisi economica, ma quelli che partono a gennaio e vanno a fare l'Australian Open dall'altra parte del mare, quella penso sia veramente una delle cose più belle, no? Ah, sicuro. Sicuro. Beh, ma anche New York a settembre non è male, eh? Sì, a New York in qualsiasi giorno e mese dell'anno sicuramente, però insomma sai, l'Australia c'è questo tipo di clima veramente bello in ogni periodo dell'anno quasi, e quindi bello. Senti, hai letto che dopo che ne abbiamo parlato per due ore ieri c'è stato questo accordo sulle rose ridotte in Serie A? Sì. Il 20 novembre il Consiglio federale ratificherà questo accordo, si va verso rose ridotte in Serie A, 25 giocatori più 8 del vivaio, o per dirlo all'inglese home ground, cioè home ground cresciuti lì. Non è passato invece il concetto dei giocatori dei 10, degli 8, 10 eleggibili per la nazionale, perché lo si è visto come vagamente discriminatorio. Guarda un po', strano, è come dire, va, siamo professionisti, non è che si può limitare la circolazione dei lavoratori, visto che questa è prevista dalla legge della Comunità Europea. Vabbè, comunque si va verso anche il passaporto, il pedigree all'inglese, eh? Sì, per dire l'inglese, che è insomma quella, il famoso motivo dello scivolone, cioè non il motivo, ma insomma in qualche modo il ciò di cui stava parlando da vecchio prima del famoso scivolone di Optipo Ba. E no, sul discorso. Ma ti piace però questo discorso? Cioè, valuti la possibilità di ingresso extracomunitario sulla base di quello che hanno fatto in nazionale, nel loro paese, in nazionale. Con questo concetto, scriveva un ascoltatore, UA non sarebbe mai venuto a giocare in Italia. Sì, ma infatti non. Io non sono d'accordo, sinceramente non sono d'accordo, non credo ci sia bisogno dell'aiutino per sapere chi è bravo e chi non è bravo, insomma, cioè, non lo so, mi sembra abbastanza risibile questo aspetto. Quello della riduzione delle rose invece mi sembra un elemento incoraggiante, di chiarezza, sul modello poi tra l'altro della Champions League, quindi per evitare di fondo è un modo dall'esterno per favorire un'efficienza, perché se tu dai, ci sono stati alcuni esempi negli ultimi anni, la possibilità di tesserare 40 giocatori, poi ci sono società che li tesserano con conseguenti aggravio di spesa e non vale la pena, quindi diciamo che è uno stimolo all'efficienza, stimolo all'efficienza. Perché ogni giocatore sai che occuperà un posto della rosa, e occupando un posto nella rosa chiaramente toglierà spazio a un altro eventuale acquisto che potresti fare, quindi è evitare di disperdere le risorse con un numero illimitato di giocatori. Si riducono i posti di lavoro, ma tanto a questo ci stiamo tristemente abituando. Giochiamo a pallacalcio praticamente tutti gli italiani, già ce l'abbiamo questa cosa, abbiamo 3 portieri, 7 difensori, 7 centrocampisti, o 8 a seconda delle interpretazioni. Io pure ho una rosa di 25 giocatori, sì, più gli 8 del vivaio. Beh, 8 del vivaio, sì. Del vivaio devi andare, devi andare a pescare, avendo cominciato nel 92 a fare il pallacalcio, il primo anno che in effetti qualcuno c'era, Mancini e Maldini hanno finito la carriera da me, eh? Ah sì, eh? Sì, ma ne avrei sentito parlare sicuramente sui giornali, insomma. Ma come no? Ho ritirato la maglia, ho ritirato il numero di maglia di tutti e due. Michele Venezia, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Dica. A voi. volevo semplicemente fare due considerazioni sul povero Mazzarri. Che il povero non è, perché mi sembra che prenda un bel stipendietto, sì. Ma comunque è una squadra completamente atipica rispetto alle sue squadre, perché probabilmente un centrocampo così di qualità non l'ha mai avuto, anche quando c'era il Napoli forte, non aveva anche Hamsik, non è un Kovacic che ha la palla tra i piedi, eccetera, è più un toccatore di inserimento, eccetera, faccio un esempio. E quindi secondo me ha una squadra di qualità e lui proprio non sa che pesci prendere, anche se gli mancano gli esterni, che lui gioca con gli esterni, per carità. E poi dici niente. Sì, no, per carità. Poi una cosa breve: il presidente Tohir, che vuole, cioè che parla tanto di bilanci, eccetera, vuole far l'Inter in 10 anni forte, se guardi il bilancio non riesci a fare un Inter forte, cioè si prova a fare. Beh, ma anche in 4, 5, 6 anni lavorandoci sopra, sì, l'obiettivo è crescere. Quanto a Mazzarri, non so se questo centrocampo sia più qualitativo o meno rispetto a quello che aveva Napoli. Non lo so, io ho la sensazione che Mazzarri, al di là di tutti gli aspetti mediatici di cui abbiamo parlato mille volte, non ci abbia capito molto, insomma, sinceramente, in questa squadra da un anno e mezzo a questa parte, ci abbia capito meno del solito, partendo dal presupposto che è un allenatore che non ha quasi mai fallito. Qui sta fallendo, c'è poco da fare, insomma, sicuramente non sta avendo quel tipo di risultato. Adesso, ripeto, l'eccesso di critica nei suoi confronti mi sembra veramente eccessivo, appunto l'eccesso è eccessivo per definizione, sembra veramente troppo, però sicuramente quello spirito, per esempio, eroico che aveva il Napoli all'inizio, del non mollare mai, del vincere tutta la serie di partite negli ultimi minuti, di avere comunque dei giocatori che hanno spostato in alto l'asticella del proprio rendimento, penso ad Aronica, penso allo stesso Gargano, penso a Cannavaro, dai, ce ne sono tanti. Sì, assolutamente. E quella roba lì all'Inter non la si vede. Io non so se dipende dal fatto che forse lui è arrivato al Napoli, ma anche l'Inter non se la passava benissimo. Lui è arrivato al Napoli in un momento dopo Donadoni di grande confusione, è partito subito bene, è stato veramente l'allenatore della svolta, della crescita, del ritorno su un certo tipo di scenari. Forse il tifoso dell'Inter, da questo punto di vista, è stato un po' più pretenzioso. Sì, ma comunque resta il fatto che lavorare lì è molto difficile. Senti, Pierluigi, cosa vorresti chiedere a Stefano Colantuono, che al prossimo giro guida l'Atalanta contro la Roma? Ma innanzitutto gli chiedo se è un caso che la sua squadra segni così poco e subisca anche poco. 4 gol fatti, 11 gol subiti, è una delle migliori difese del campionato, credo la quinta, però l'attacco non va così tanto. Poi andiamo sulla Roma. Buongiorno mister. Buongiorno mister. Buongiorno a voi. E niente, i numeri sono questi, non è un caso che prendiamo pochi gol, perché credo che 2 anni fa siamo stati la quarta difesa del campionato, invece può essere un caso il fatto che segniamo meno, perché solitamente la squadra, insomma, ha sempre fatto il suo per quello che riguarda la casella gol fatti, quindi dobbiamo migliorare sicuramente. Anche qua 10 punti con 4 gol segnati non è mica male, però E infatti, tra le altre cose, poi c'è anche questo qui, questa è poi l'unica cosa che conta, questo è ovvio, che sì, poi alla fine è normale che i punti della classifica sono quelli che poi fanno la differenza. E tra le altre cose, credo che a questa squadra, almeno per quello che si è visto in questo inizio, 2 o 3 punti gli manchino. Però è chiaro che sul discorso col fatti dobbiamo sicuramente crescere, e lo faremo, perché insomma lo abbiamo sempre fatto. Partendo da, cioè adesso il mercato è chiuso, insomma, così guardandola da fuori, questa squadra qui dove è migliorabile? Non voglio sapere i nomi ovviamente, però i reparti. Ma noi intanto c'è da considerare una cosa: abbiamo dato via un giocatore molto importante come Bonaventura, e l'avevamo sostituito con un giocatore altrettanto importante come Papu Gomez, e che è il giocatore che poi a noi ci alza in maniera esponenziale il tasso qualitativo, e non l'abbiamo mai avuto tranne che per uno spezzone di partita. Stigaribbi è un giocatore fondamentale per il nostro sistema di gioco, un giocatore che l'anno scorso ci ha fatto la differenza, l'abbiamo perso per un incidente al ginocchio, un infortunio, e lo avremo fuori quasi fino alla fine del campionato. Poi ci sono sommate un po' di squalifiche, abbiamo perso Cicarini per 3 giornate, poi abbiamo perso Carmona, insomma, sai, queste sono cose, sono giocatori che insomma nell'economia di una squadra già ben rodata hanno il loro contributo e hanno il loro peso, per cui abbiamo perso questi qui. Io, più che pensare a quello che, dove possiamo migliorare, cosa possiamo fare, direi che aspetto con grande ansia il recupero di questi giocatori, di quelli che non ci sono adesso. Esatto, poi ci sarà sicuramente qualche giocatore che dovrà crescere nella prestazione e nel rendimento, e sicuramente questo lo stiamo aspettando anche. E poi eventualmente a gennaio, come tutte le squadre del mondo, se c'è da fare qualcosa per risistemare, per rimodellare, credo che insomma come tutti saremo attenti. Sì, saremo attenti, insomma ci guarderemo intorno anche noi, ma come fanno tutte. Certo, come è normale che sia. Per l'Atalanta, per i tifosi dell'Atalanta, quella con la Roma sappiamo è una partita specialissima nel corso della stagione, ma anche per lei? No, per me è speciale perché come sempre capita di quando giochi con queste squadre, è speciale perché intanto perché è difficile, è molto difficile, e poi perché vorremmo dare seguito a questi tre risultati consecutivi che abbiamo fatto per ora, tre pareggi, ma due pareggi fuori casa su due campi difficili e uno in casa col Napoli, quindi vorremmo continuare a fare punti. E capita la Roma purtroppo, perché dico purtroppo perché la Roma è una squadra che oltre a stare molto bene, l'abbiamo visto nella partita col Torino, è una delle più, insieme alla Juventus, la più attrezzata del campionato. Hai cominciato a studiarla? E come ti spieghi le oscillazioni di rendimento che ci sono state, insomma, al di là della forza degli avversari, perché ovvio che Bayern... Diciamo un po' le cose come stanno, caro De Luigi. Allora, la Roma ha sbagliato, ha perso due partite col Bayern, con una squadra nettamente più forte in questo momento della Roma, c'è poco da dire. Ora non ci sono i 7 gol di differenza, ma c'è sicuramente il 2-0, ci può stare quello, insomma, i due gol di differenza, insomma, che abbiamo visto poi nel ritorno. E poi ha sbagliato un tempo col Napoli, il primo tempo secondo me. Il Napoli ha approcciato molto bene, l'ha messa in grande difficoltà, ed è stata lì poi la chiave della partita. E poi per il resto la Roma dove? Certo, assolutamente. La Roma sta facendo quello che grosso modo faceva l'anno scorso, in alcune circostanze anche meglio. Grazie mister. Grazie a voi. In bocca al lupo. Ci sentiamo presto. Ti aspettiamo a Tikitaka, scatenato, 40 km Bergamo-Milano, Non sono di più, si percorrono col codice della Savoia, Cologno-Monzese, verso, chi conosce la Lombardia lo sa, è spostata verso la 4, praticamente è quasi a Bergamo, quindi... Praticamente in casa, scende le scale e arriva a Tikitaka. Vedremo. Nelle sere d'inverno questo odore di polenta taragna che arriva, no, dalle valli. Vai. Grazie mister. Ciao. Grazie. A voi. Ciao. Convocati. Con lo sguardo da serpente io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca, sulla pista di lavorata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata senza fiato, l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Non c'è stato nessun confronto e non ce n'è bisogno, giustamente quando uno entra in questo spogliatoio e si mette al servizio della squadra non c'è altro da dire, il mister fa le scelte e siamo tutti un gruppo unito che ha un solo obiettivo, che è quello di vincere e di far bene tutti insieme. Detto questo credo non ci sia da aggiungere altro, poi capisco che per voi sia importante parlare di quante volte va al bagno Mario, di quante volte starnutisce, di quante volte chiama la mamma, la fidanzata o il fratello, però a noi sinceramente l'unica cosa che conta è la squadra, conta la partita di domenica, conta vincere, non conta uno ma conta l'insieme, quindi che ci sia Chiellini, Pirlo, Buffon, Balotelli e Bonucci o gli ultimi arrivati che sono Soriano, Bertolacci, non conta niente. Non c'era niente da ricuscire, alla fine il mondiale abbiamo deciso di metterci tutti una pietra sopra, ma in generale non sto parlando di Mario, ma proprio sappiamo che purtroppo è andata male, che però è iniziato un nuovo ciclo, bisogna ripartire, azzerare quanto è successo in precedenza. Da parte nostra non c'è stato chiesto niente, non abbiamo detto niente, tutti siamo importanti, nessuno è indispensabile, quindi è importante Balotelli, è importante Chiellini, è importante Soriano, è importante Buffon, a seconda della situazione, se tutti ci mettiamo a disposizione degli altri. nessuna è indispensabile o più importante di altre. Parole dal ritiro nazionale Chiellini, ovviamente l'argomento Balotelli, ma questo l'avrete già capito. Senso de Pennica? No, no, senza pennica no, le ho montate anche in un servizio che ho fatto per Italia 1, quindi le conoscevo a memoria, ma sì, insomma, ed è sempre stato il discorso, prima l'uovo la gallina, cioè sono le persone che vogliono sentir parlare di Balotelli e quindi i media seguono, oppure sono i media che influenzano le opinioni e fanno sì che si parli tanto di Balotelli, e in ogni caso stiamo parlando dei media di tutto il mondo, perché questo signore qui è finito sul Time, quindi adesso che abbia una sua mediaticità è fuori discussione, insomma, che sia più mediatico del mio amico Bertolacci, al quale faccio un grande in bocca al lupo, questo è fuori discussione, no? E quindi insomma, poi possiamo discutere tutta la vita sul fatto che non ci sia una correlazione fra le pagine e i minuti di argomento e di approfondimento nelle trasmissioni televisive o sui giornali rispetto a quello che dà in campo, però si crea questo meccanismo per cui se ne parla, che vedo di D'altra parte, cioè, Beckham è diventato una superstar mondiale, può essere fatto più o meno lo stesso discorso, no? Sì. Era un signor giocatore, ecco, era un signor giocatore. Ringrazio, perché stavo per dirlo io, cioè Beckham è stato secondo me paradossalmente quasi ha regalato una quantità enorme di vantaggi, di soldi, di fama, di popolarità dalla sua bellezza, dal suo essere un'icona dello star system. Sì. Quindi da questo punto di vista sicuramente è stato privilegiato, però io credo che invece nella valutazione superficiale di alcuni appassionati di calcio Beckham ci abbia rimesso, perché si è finito, secondo me, troppo per esagerare, per enfatizzare il suo lato appunto da icona sexy o da attore più che da calciatore, ed è stato un calciatore eccezionale, un grande calciatore, è stato Cristiano Ronaldo e Messi o Ibrahimovic, è stato un grande calciatore, ma poi soprattutto uno che era l'esatto opposto di Balotelli come filosofia del lavoro, cioè a lui piaceva da morire giocare a pallone, cioè lui avrebbe attraversato l'oceano a nuoto con gli squali pur di mettere per 10 minuti la maglia della nazionale inglese. Guarda, le mie frequentazioni, che non siamo stati così tanto con Beckham, e diciamo comunque le persone che conosco ci hanno lavorato, sia giornalisti che addetti ai lavori che ce l'hanno avuto in squadra, Beckham era veramente di una professionalità incredibile ed era essenzialmente un calciatore, cioè era uno che amava certo. Poi è chiaro che c'ha i figli che si chiamano Brooklyn, New York City, Angels Clippers, non lo so, insomma, con questi cose così, e chiaramente una moglie iper posh, del resto era la posh Spice, quindi non poteva non essere posh, ma però poi alla fine in campo c'è questo ragazzo della campagna inglese, della Home Counties inglese, abbastanza semplice, che si è lasciato guidare, che ha ricavato una quantità enorme di benefici dal suo essere essenzialmente molto bello, che è il punto di partenza, molto amato, molto desiderato, e alla fine quindi un grande carisma mediatico, che è una dote naturale. Tra l'altro ha lavorato, e lui all'inizio dei problemi anche voglio usare una parola grossa che è dislessia, ma insomma comunque aveva dei problemi, diciamo, dal punto di vista della comunicazione, proprio nell'articolazione delle parole quando era molto giovane, ed era considerato banale nei primi anni della sua carriera, molto banale, uno che difficilmente avrebbe avuto quel tipo di ruolo, e ce l'ha avuto, quindi insomma è uno straordinario esempio da questo punto di vista, però tutto questo non deve distoglierci dalla sua capacità da calciatore, che è stata eccezionale, e ripeto, un filo sotto ai grandissimi, nel senso che poi chiaramente nei momenti più alti della sua carriera, insomma, come metteva la palla con quel piede Beckham, la mettevano in pochi, le punizioni, la qualità, insomma, è stato un giocatore nei primi anni della sua carriera anche molto dinamico, poi chiaramente grande atleta. Negli ultimi anni è diventato un po' meno mobile, e quindi si è un po' riadattato, ma anche Giggs ha finito la sua carriera alla fine giocando da intermedio a centrocampo dopo anni passati sulla fascia. Giggs secondo me è stato superiore, però ecco, della scuola britannica secondo me sono due dei giocatori migliori che ci sono stati negli ultimi anni, insomma. Noi abbiamo invece Rugani e Moretti che debuttano in nazionale, facciamoli sentire, dai. Per me questa è un'occasione unica, veramente importante di crescita, perché stare in mezzo a tutti questi campioni non può che farmi bene, farmi crescere, quindi io sinceramente mi auguro di essere il futuro, ma non ci penso sinceramente adesso, mi godo questo momento bellissimo. Io sinceramente, per me è un'occasione anche per per crescere, no? perché sono ambienti veramente dove vedi che c'è il meglio del meglio, quindi sia da un punto di vista strettamente tattico e di campo con lo staff tecnico, e anche da un punto di vista personale, perché ovviamente mi rendo conto che sono a contatto con giocatori che hanno più di 100 presenze in nazionale. Per uno che ci arriva per la prima volta a 33 anni, insomma, è un'occasione, no? da sfruttare, e spero di poterne approfittare il più possibile. Quindi Rugani e Moretti debuttanti in nazionale, ovviamente storie molto diverse. Moretti, esatto, gemelli diversi, sì. Moretti, beh, 33 Moretti, anni. Moretti è una bella storia, insomma. Moretti è uno di quei calciatori che secondo me ha avuto un'ottima carriera, ha avuto l'esordio con Mancini ai tempi di Firenze, un'ottima carriera. Il fatto che abbia fatto un'esperienza all'estero forse gli ha tolto dal punto di vista appunto mediatico e forse anche di nazionale delle opportunità, però lui ha vissuto esperienze, penso a Valencia, eccezionali. Io l'avevo intervistato in quel periodo lì, stava da Dio, giustamente, a Valencia, insomma, da titolare di una squadra comunque importante, di un campionato che poi rapidamente ci avrebbe superato, insomma, e adesso sta facendo bene, sta negli ultimi anni della sua carriera, sicuramente si sta confermando come un buon giocatore. Sì, certo, non è una convocazione progettuale. Non è una convocazione progettuale, c'è la squalifica di Bonucci, c'è l'assenza di Barzagli, che va bene, sì, Barzagli, per quanto potrà ancora dare, non è progettuale neanche Barzagli, lo sappiamo bene. Però insomma mi fa molto piacere, poi ragazzo eccezionale, poi si dice sempre eccezionale, si abusa di questi aggettivi, però bravo ragazzo per bene, sempre posato, è un altro caso, grande professionista, appunto, è un altro grande professionista di cui sopra. Ma è vero che vai a fare l'inviato all'Isola dei Famosi? Ma no, io sappia no, no, ma l'ho sentita dire in giro adesso, Piantanina, sì, mi ha detto ma chi è lì, se va a fare l'inviato all'Isola dei Famosi con Fanny, con la signorina Fanny, solo per dimagrire, cioè sarei solo a fare il concorrente eventualmente, poi adesso ovviamente sto scherzando, può parlare di tutto nella vita, ma non l'ho sentita anch'io, ma non mi hanno detto niente, ecco, quindi no, non ne sai niente, vorrei continuare a fare, sì, a intervistare Moretti, sì, anche se no poi come facciamo a collegarci, poi non so il fuso, mi dovrei collegare 3 di notte dall'Honduras, e dai. Cosa vuoi che ti dica io? Cioè, è complicato, lo possiamo, se no se vuoi dico anch'io, facciamo tutti convocati, mica un problema, no. Io ho un telefono che prende talmente bene che esatto, sei talmente equipaggiato dal punto di vista telefonico che di sicuro problemi non ce ne sarebbero. Tutti convocati. Allora, Filippo e Matteo hanno annunciato dopo, Pierluigi Pardo non andrà a fare l'inviato all'Isola dei Famosi, abbiamo ufficialmente smentito. Non mi metto in mezzo. Cioè, diciamo che non mi hanno detto niente, non mi sono arrivate proposte. E tendenzialmente vorrei continuare a occuparmi di calcio, però detto questo, poi siamo qua, il numero ce l'hai in caso chiamate Radio 24. E quindi stai valutando, cioè arrivasse una proposta, la valuteresti. Ma sei veramente un giornalista, posso dirlo. No, ma l'hai detto tu, arrivasse una proposta la valuterei, cioè non ho ancora avuta, però se... Due punti, Isola, arrivo, cioè... Qual è il titolo, eh? Isola sto arrivando. Senti, ascoltami, intanto parlavi di Moretti che giocava a Valencia eccetera, a proposito di inviati in altri paesi, c'è Federico Piovaccari che l'anno scorso steava a Bucarest 10 gol nel campionato rumeno, e quest'anno gioca nell'Ei Barche, neopromosso, squadra piccola di un piccolo paese dei Paesi Baschi. Ciao Federico. Ciao, grazie. Ciao. Cos'è? Ciao. Una specie di Chievo dei Paesi Bassi? Dei Paesi Bassi, Baschi? Beh, diciamo che può essere un buon esempio, anche se Eibar è una città, un paesino di 25.000 abitanti, e quindi si gioca in uno stadio che ne tiene massimo 5.000, e quindi un po' una realtà un po' diversa, però... Di certo ora come ora la stiamo vivendo tutti un po' come un sogno, perché sabato incontreremo, sabato che viene incontreremo Real Madrid e tutti stanno aspettando questo momento. Vabbè, una squadretta, non è granché, la volta che è bloccato Cristiano Ronaldo, Benzema, poi c'è Cross, vabbè, poi vengono a saltare, non ti preoccupare, guarda, insomma, ci parliamo noi con Ancelotti, non ti preoccupare. Senti, ma com'è il calcio italiano? Com'è il calcio italiano visto da fuori? Cioè, siamo così sfigati, siamo così in crisi? Beh, non ne parlano benissimo di certo. Appena m'han visto italiani, tutti mi hanno detto qui non si gioca al catenaccio. Hai detto. Qui siete. Quindi, che gentile. E quindi normale, siamo visti un po' diversamente rispetto a quello che pensiamo noi. Però anche loro stanno notando che c'è un po' un calo di visibilità, però più che altro di competitività con le altre squadre. Quello penso lo si vede, lo si nota anche nei campionati, nella Champions League e nell'Europa League. Senti, ma tolto ovviamente Barcellona, Real Madrid e queste qui, è così più duro il campionato spagnolo rispetto a quello italiano visto da dentro? Io metterei anche l'Atletico Madrid, sicuro, tolte queste grandi. Quest'anno il Valencia, perché quest'anno il Valencia sta facendo un campionato di alto livello, e a prescindere da Real Madrid e il Barcellona, che fanno tra virgolette sempre un campionato a sé, però soprattutto vedendo la squadra di Simeone si vede che può competere con tutti, e lo si è visto l'anno scorso. Però ti dico, è un calcio molto offensivo, nel senso che si pensa prima attaccare e a far gol che difendere, e spesso e volentieri invece di finire 1-0 magari la squadra si difende per mantenere il vantaggio, attacca e rischia poi magari di perdere 2-1. Questa è proprio una mentalità loro che si sapeva, io dal primo anno che gioco in Spagna, si sapeva dall'esterno, però quando sei dentro capisci che proprio è la loro mentalità proprio principale, nel senso che si attacca e poi la gente si diverte anche per quello. E poi soprattutto se poi capita di andare al Bernabeu e prendere 5, non è che che succedono dei casini come succede in Italia, cioè c'è anche una minore pressione mediatica. Quello è la prima cosa. 3 settimane fa abbiamo giocato col Barcellona, fino al 60esimo era 0-0, e c'è una partitissima, è normale che loro stavano cercando di farci gol e tutto. Tra l'altro noi abbiamo avuto 2 occasioni per passare in vantaggio, poi dopo che ci hanno messo il primo, il secondo e il terzo siamo tornati a Eibar, applausi a tutti, nel senso che per loro essere stati sullo 0-0 per 60 minuti qui era come una vittoria, però è proprio un'altra mentalità. Sabato abbiamo perso 2-1 a Malaga, dove abbiamo fatto una partita buonissima, quasi straordinaria, e abbiamo perso solo al 90esimo. Quindi dico, siamo una piccola realtà, parecchi giocatori il primo anno che giocano nella Liga spagnola, sì, quindi, sì. Sì, nella Liga principale, quindi ti dico siamo consapevoli della nostra forza, e se siamo a metà classifica anche un merito di tutti. Tanto è già inchiostrato un paio di gol, 8 partite, 2 gol per Piovaccari. Pier, vuoi chiedere ancora qualcosa? Sì, c'è qualcosa che ti manca dall'Italia? Calcisticamente qualcosina sì, magari sono tra virgolette un po' facilitato perché mia moglie è spagnola, quindi infatti hai l'accento spagnolo, no? E quindi dice, è anche questo una bella vetrina, soprattutto anche per i miei suoceri, per i cugini che ho in questo paese. Però ti dico, come sempre detto, a me piacerebbe provare almeno un'esperienza e avere almeno una presenza nella Serie A italiana, che purtroppo non ho ancora. E come ho detto, a me interessa giocare e dimostrare quello che valgo, se come l'anno scorso è successo a Bucarest, giocando anche la Champions League, quest'anno nella Liga, non c'è problema. Io cerco di andare dove mi vogliono e poi normale cercare di dimostrare quello che sto facendo negli ultimi anni. Ma come giusto che sia. Grazie Federico. Ciao. Niente, grazie a voi. Ciao, un abbraccio. Grazie Federico Piovaccari. Senti Pierluigi, allora passi a salutarmi prima di andare all'Isola dei Famosi però, eh? Devi stare calmo. Ma no, prima però, prima ma dove l'hai letta? Chi te l'ha detto? Ma tu non ti preoccupare. Ma gira sta voce, ma non. E allora, cioè, qui ci documentiamo, valutiamo, eccetera, no, eccetera, no. E cerchiamo anche di fare dell'informazione, no? Sto guardando Minetti e Siffredi all'Isola. Sì, no. Minetti qualche problemino. Oggi. Ah, sì, cioè. Siffredi. Beh. Non male, non male. E poi confermata Fanny, no? Tu che lo sai, visto che ormai sei venuto. Sto guardando adesso su Google, te giuro. Ecco, tra l'altro c'è anche. Vabbè. C'è scritto qualcosa. Vabbè. No, vabbè, dai, ci sentiamo. Senti, però passi prima di partire, però passa a salutarmi. Se no mi offendo. Se no mi offendo. Gado fa le partite su, ma non scherziamo. Ma ci stanno i palloni sull'isola, non ci stanno i palloni. Le noci di cocco. Sì, le noci di cocco. Ti fai. Ti rompi il piede. No. Ciao Pier, ciao. Sentiamo domani. Bel corner GR 800240024 per le vostre telefonate. Quote e pronostici. Domani si ricomincia con le qualificazioni ad Euro 2016 con in campo i primi tre gironi. Alle 18 a Tbilisi c'è Georgia, Polonia prima nella gruppo D assieme all'Irlanda a quota 7 davanti alla Germania campione del mondo. Vediamo dunque le quote sniper. Il match tra Georgia e Polonia, l'1 è quotato 4,25, X a 3,25, 2 con il successo dei polacchi che hanno già battuto anche la Germania è quotato 1,90, gol a 1,53, no gol a 1,65. Deve vincere e convincere la Grecia di Ranieri sotto la lente di ingrandimento dopo le ultime prestazioni tutt'altro che all'altezza della fama dei greci. Greci penultimi a un punto davanti solo alle Faroe che saranno avversari proprio dei greci nel match di domani ad Atene alle ore 20:45. L'1, il successo greco, è a 1:15, l'X è a 7, il 2 invece con la vittoria delle piccole isole è quotato 17. Nel gruppo I c'è la sfida tra Portogallo e Armenia alle ore 20:45, 1 vittoria dei portoghesi a 1:18, X a 6:50. 2 invece quotato 15, under per questa partita a 2,07, over a 1,68. Questa era l'ultima delle quote 6 di oggi. Noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. Mi ha raggiunto dal piano di sopra Marco Beninazio, dal Sole 24 Ore. Ciao. Ciao Carlo, Marco, ciao a tutti. Che adesso ci racconterà tutto sulla cessione del Parma, ormai ufficiale a Taci, no? No. No. Beh, insomma, di ufficialità sto scherzando. Non è di questo mondo. Ci racconterà dell'Inter, della Roma e delle loro vicende europee, di Moratti che leggiamo oggi sui giornali non vuole ricapitalizzare, quindi questo schiaffo morale forse a togliere, oltre che economico. Dei mondiali confermati a Russia e Qatar, se c'è stata corruzione chi se ne importa, tanto il mondo gira così. Di frequentazioni tra Tavecchio e... beh, poi ne parliamo. Tavecchio, il calcio italiano che vorrebbe dire, vorrebbe qualche soldo dall'enorme giro d'affari e si è rivolto ad insigni giuristi, sì, per avere una legittimazione. Adesso vi raccontiamo tutto questo, ma prima Matteo da Treviso e Filippo da provincia di Varese che ho lanciato prima mezz'ora fa. Matteo, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Niente, io sono un tifoso interista, un misto tra rassegnazione e disperazione. Mi piace Kovacic che porta sullo stesso nome con una tisola. Ho chiamato proprio Kovacic perché Kovacic c'è un aggettivo di cui si abusa molto nel mondo che è la parola qualità. Si parla di qualità di Kovacic, ma evidentemente la usa solo in Croazia la sua qualità, perché all'Inter l'ha fatta vedere ben poche volte, quindi forse si usa per tenere alti i valori di mercato, perché io non ho mai visto giocare bene all'Inter questo ragazzo, nonostante sia da un anno e mezzo che ha, e si parla di qualità di Kovacic, sì. Ma dov'è questa qualità, quando serve? Perché allora parliamo del presupposto. È un giocatore teorico, per il momento è un giocatore teorico, di certo c'è che ha un grandissimo talento, l'anno scorso è stato usato molto poco, forse troppo poco da Mazzarri, è giovanissimo, è un bambino, praticamente un bambino, ieri ha giocato una grande partita a Londra contro l'Inghilterra, però insomma un amichevole a novembre non può fare primavera, è certamente un valore importante per l'Inter che non ha tantissimi giocatori monetizzabili. il giocatore su cui si sta costruendo il futuro, anche perché è l'unico che con una crescita, diciamo, nei prossimi due anni per guadagnare dei soldi. Beh, il calcio italiano è un calcio da esportazione ormai e non potrebbe essere altrimenti, in particolare in un club come quello nerazzurro. Ma tu lo vorresti Kovacic al Napoli, alla tua squadra? Beh, direi che un giocatore ti piace? Beh, devo dire che ha grandi potenzialità. È vero anche, Carlo, che io quando sento parlare di giovani calciatori ancora troppo giovani per dimostrare appieno il proprio talento, insomma, storco sempre un po' il naso, perché secondo me se uno è bravo, è bravo, insomma, anche 18 anni, 19 anni lo può dimostrare ampiamente. Poi può avere alti e bassi, naturalmente, perché la maturità si raggiunge più in avanti, però insomma, se uno è determinante lo è fin da subito. Sì, a me sembra un giocatore ancora molto incompiuto, cioè nel senso di uno che riesce ad incidere poco, nonostante sia bello da vedere, vedi che ha talento, tocca meravigliosamente la palla, però difficilmente riesce a incidere profondamente sulle partite. Dipende molto, secondo me, anche dal disegno tattico e strategico, in particolare per i giovani calciatori. Credo sia fondamentale avere bene in mente quello che l'allenatore ti chiede e cosa devi fare. Sì. Credo che in questi due anni ci siano stati, insomma, un po' troppi balletti intorno alla sua posizione, intorno al suo ruolo all'interno dell'Inter, e questo non abbia favorito, ecco, una rapida evoluzione. Filippo, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno, grazie mister per la convocazione. Grazie a lei. Volevo solo provocatoriamente dire una cosa al nostro carissimo Mario Balotelli, anche se immagino pochi abbiano parlato di lui, ed è questa: forse ha bisogno di un insegnante di sostegno, ma non è una cosa negativa, è una cosa positiva, un educatore, qualcuno che riesca a fargli capire quelli che sono gli aspetti positivi, non solo gli aspetti negativi. Un mental coach ci vorrebbe. Vabbè, ma di questo si è parlato a lungo. No, guardi che hanno sempre affiancato psicologi o persone di un certo livello. Io parlo proprio di insegnanti, di educatore. Non so se era presente, nella scuola media esistono proprio gli educatori affiancati a chi ha disagio sociale. Ecco. Ma lui non, Filippo, lui non ha disagio sociale, viene da una meravigliosa famiglia che certamente non gli ha fatto mancare tutte queste cose. Poi crescendo diventerà quello che vorrà, no? Credo di sì, credo che insomma. Non credo che siano le basi, anzi, sono certo del fatto che non siano le basi quelle che gli sono mancate. E credo che sia anche ormai un alibi che vada sfatato, insomma, questo del suo disagio. Sai cosa? Secondo me non si diverte, cioè non si diverte a giocare a pallone. Cioè, prima parlavo con Pardo di Beckham, pure un giocatore estremamente monitorato, no? una superstar globale planetaria, però la differenza era essenzialmente nell'amore che aveva per quel campo, per quel gioco. Sai, Balotelli, Balotelli giochi per farti un piacere. Sì, ma perché forse anche nella sua crescita, no? Io credo che a 15 anni già ci fossero intorno a lui attese tremende rispetto alle quali lui forse non si è mai sentito completamente all'altezza, e la sua reazione è stata anche quasi questa di sprecare il suo talento, no? Di buttarlo via in una situazione in cui tutti già glielo riconoscevano quasi a prioristicamente, no? Questa impressione, il suo mancato amore verso questo sport, lo vedi, perché non festeggiare perché si è arrabbiato può andare bene una volta, due volte, quando diventa strutturale significa che c'è qualcosa che non va verso quello che fa. Non ha il piacere di giocare, cioè non gli leggi in faccia il piacere di giocare. Questo è un peccato. Credo che questo sia il vero problema. Non lo so, poi ognuno cerca il suo. Omar da Treviso, ad esempio, scrive: Conte è tanto bravo quanto furbo. Balotelli è stato convocato con la Croazia, che è la partita più dura del giorno. Così se perdiamo, danno una colpa a lui e non a Conte. Io non credo che Balotelli giocherà contro la Croazia, certamente non giocherà dall'inizio, quindi se l'Italia perderà contro la Croazia non credo possa essere data la colpa a Balotelli se starà seduto in panchina, come credo. Dimmi del Parma, va a Taci o no? Beh, le trattative con Taci, che più volte ha cercato di prendere una squadra in Italia, non sono mai semplici, soprattutto poi queste trattative si complicano di più quando dall'altra parte hai uno come Ghirardi, insomma, che non è semplice come interlocutore. C'è da dire che il Parma si è avvitato in questa spirale negativa negli ultimi anni, investimenti probabilmente sbagliati, una politica quella di comprare tantissimi giocatori per poi avere magari la possibilità di piazzarli in squadre satellite nel Nova Gorica piuttosto che a Gubbio, sì. Ha fatto sì che sia cresciuto enormemente il peso dei costi del Parma di fronte al fatto che poi i ricavi non sono altrettanto cresciuti. Io appunto in questi giorni sono andato a spulciare il bilancio del Parma del 2013, che il 2014 non è ancora disponibile. Apparentemente tra il 2012 e il 2013 il Parma ha perso soltanto 5 milioni. Però se vai a leggere nel bilancio ti rendi conto che le perdite sono molto più ampie, perché era stata fatta un'operazione di cessione del marchio a un'altra società, e quindi una finta plusvalenza di 30 milioni che aveva ridotto queste perdite. Mentre se andiamo alla parte strutturale, trovi i costi cresciuti da 87 a 104 milioni e i ricavi che erano scesi da 100 milioni a 80 milioni. Questo nel 2013, e quindi ti dà il senso di una dinamica che non è stata positiva quanto ci si aspettava. Quindi il bilancio è stato dopato da questa cessione del marchio, come abbiamo visto fare più volte. Diciamo che dal punto di vista amministrativo dire che è stato dopato il bilancio ci porterebbe alla possibilità, diciamo, di subire delle querele, quindi noi ci dissociamo da noi stessi, però di fatto il principio l'abbiamo reso. Roma-Inter davanti all'UEFA, cosa succede? Beh, allora sono stati fatti questi incontri con apprezzamenti ma anche qualche preoccupazione su entrambi i fronti. Per quanto riguarda l'Inter c'è stata da parte di Toir e dei suoi dirigenti, insomma, c'è stato molto ottimismo. È stato presentato il business plan, no? Lo sviluppo del marchio, i discorsi che Toir ha fatto in questi anni, però gli organi contabili hanno posto i conti davanti ai dirigenti, cioè il fatto che da meno 80 nel 2013 si è passati di fatto a un meno 100 nel 2014, e si è chiesto una spiegazione che Toir in qualche modo ha gettato sul passato, sulla cattiva gestione del passato, sì. Questa cosa ha fatto ulteriormente imbufalire Moratti. Ed è questa la ragione per cui... Una delle ragioni, e in particolare, diciamo, sono due le cose che preoccupano a Bruxelles per quanto riguarda l'Inter, e cioè il fatto che Toir non abbia pagato i vecchi debiti con dei suoi soldi, ma ha fatto un rifinanziamento con Goldman Sachs e Unicredit, che ha posto sulle spalle dell'Inter una zavorra di altri 200 milioni, anzi 230 milioni di debiti, che dal prossimo anno comporteranno il pagamento di una rata di un milione al mese fino al 2019, e poi ci sarà una mega rata finale di 184 milioni più gli interessi, che sono circa il 5,5%. Questo significa che tra 5 anni o l'Inter avrà fatto talmente tanti risultati sul campo da essere sempre in Champions, e quindi abbia fatto dei profitti e sia riuscito ad accantonare questi soldi per pagare questo debito, oppure fra 5 anni, se Toir non mette soldi di tasca sua, cosa che al momento non sembra voler fare. La parte buona dell'Inter, che è stata scissa, quindi con dentro i ricavi dagli sponsor più importanti, i diritti TV, finirà in mano alle banche, e quindi di fatto l'Inter sarà di Goldman Sachs e Unicredit e dei loro finanziatori. Sì. Questo è quello che preoccupa molto diciamo in sede UEFA, e soprattutto preoccupa, e l'altra ragione, e qui si intreccia molto con il lavoro di Mazzarri, è il fatto che il business plan dell'Inter prevede che si vada in Champions almeno 3 volte nei prossimi 4 anni, e qualcuno che è Agnon, che è esperto di conti ma anche di cose di calcio, dubita che l'Inter nei prossimi 4 anni possa andare 3 volte in Champions. No, ma anche perché se poi si fa il mercato a impatto zero, se poi non hai soldi da spendere sul mercato, non puoi costruire la squadra, poi diventa anche difficile, e no? qui arriviamo Harry Potter a fare l'allenatore o diventa complicato, e qui arriviamo al problema di oggi, cioè all'aumento di capitale. Chi lo fa, chi ci mette i soldi, chi non ci mette i soldi. C'è un problema che Moratti, quando ha venduto l'Inter, ha tenuto quel 30% che era, diciamo, il suo tesoretto. C'è una quota che avrebbe venduto, e ha il diritto tra l'altro di venderlo entro il 15 novembre del 2015, se, diciamo, l'Inter si fosse risanata dal punto di vista contabile e fosse tornata in Champions. Quella quota avrebbe avuto un valore di quasi 100 milioni. Al momento quella quota non solo non vale 100 milioni, ma dentro ci sono anche le perdite che l'Inter ha già maturato e quelle che maturerà, e che portano quella quota ad abbassarsi in maniera drammatica. Da qui anche, come dire, lo scetticismo di Moratti, che ha ceduto poi voglio dire, alla rabbia, si è allontanato dall'Inter quando ha notato che Toir, che aveva ottenuto il 5,5% di interessi sul prestito ottenuto da Goldman Sachs e Unicredit, a sua volta come presidente, anziché mettere dei soldi nell'Inter, ha prestato dei soldi all'Inter a maggio e giugno dello scorso anno, 22 milioni, facendosi pagare questo prestito all'8%. Ora, che non è male. Che non è male, io ho fatto dei rapidi conti e più o meno da questa operazione tra dare e avere, tra l'altro non coincidono temporalmente, quindi insomma, però il principio è che ci guadagna circa 500.000 euro da questa operazione. In qualche mese. Che non è male, che non è male. Non è male per niente. Pamal, Andrea, provincia di Rimini, buongiorno. Buongiorno. Vuole mettere dei soldi nell'Inter? No. Se vuole la metti in contatto con Toir. Ah, è milanista. Va bene, quindi nell'Inter, magari nel Milan la mettiamo in contatto con la signora signorina Berlusconi. Dica. Va bene, volentieri. Allora, io volevo tornare un attimino, se era possibile, al discorso Balotelli. E, non so se sono argomento a questo punto. Ma comunque, certo, volevo sempre. Volevo dire questo. Io penso che Conte, se Balotelli gioca dal primo minuto, perde di credibilità, perché lui deve comunque pensare che lo sport ha un valore sociale, un valore morale e quindi anche un valore, cioè deve dare l'esempio. E quindi io non sottovaluterei questo fatto, volevo sapere cosa ne pensate voi. Ma io credo che lo sport professionistico si faccia per far giocare i migliori e provare a vincere le partite, perché io credo che se Balotelli dovesse entrare al primo minuto con la Croazia, cosa che non accadrà comunque, penso che lo vedremo in panchina probabilmente per tutta la partita e magari lo vedremo in campo con l'Albania, se dovesse giocare e segnare una doppietta permettendo all'Italia di vincere 2-0, poi tutti saremmo, non dico balotelliani, ma quantomeno contenti di sicuro. Quindi penso che lo sport professionistico vada visto in questa chiave. Io personalmente tendo a credere a Conte quando dice che non ha convocato Balotelli per questione di sponsor, per quanto tra i valori dello sport sono anche quelli economici, certo, come raccontiamo. Certo. Nel caso specifico penso che Conte sia uno anche molto intelligente e abbia messo in conto i valori sociali ed educativi e non faccia giocare Balotelli, oltre diciamo per il dato tecnico sportivo, per cui non avrebbe, cioè, ma poi in un momento in cui cioè una drammatica penuria comunque di attaccanti, soprattutto in questo momento, è chiaro, sta giocando una pessima stagione, la peggiore della sua carriera e probabilmente sta mettendo a rischio la sua carriera. Però ci dicono in Inghilterra che come atteggiamento in campo si sta comportando da bravo bambino a Liverpool. Comunque, se in questo momento Conte avesse dovuto, cioè avesse ritenuto di aver bisogno di Balotelli si fosse sentito libero di convocarlo per chissà quali ragioni metafisiche, allora non avrebbe fatto il suo dovere, no? Chiaro. Questa è la mia idea. Concordo con te. Dimmi invece di della Roma. Abbiamo un ultimo brevissimo passaggio sulla Roma, perché anche sulla Roma bellissimi progetti che Pallotta ha presentato, il nuovo stadio, vedremo se Circo saranno Massimo superati. Beh, quella se la poteva risparmiare, insomma, Pallotta tra il Colosseo e Circo Massimo, per quanto, voglio dire, abbia un intuito, no? Ma certo, felice già rispetto al marketing e ai valori che potrebbe esprimere una città come Roma in termini di attrattività turistica e anche calcistica, cioè i tanti che vanno a Madrid a visitare lo stadio Bernabeu pagando 20 euro per farsi, chiaro, il giro dello stadio, il museo, no, perché non dovrebbero venire a Roma per venire a visitare anche, voglio dire, oltre alle bellezze che tutti conosciamo, anche quelle sportive, tra cui il nuovo stadio della Roma, che mi auguro si faccia per quanto ci siano tanti problemi. In ogni caso c'è il fatto che se l'Inter è andato a Nyon presentando dei conti con un meno 200 quando il limite era meno, del prefinanziario era meno 45 nel triennio con osservazione, la Roma prima aveva perso un 100 milioni rispetto a un limite di 45, quindi era messa un po' meglio. Un po' meglio. Il problema lì è che il trend purtroppo della Roma è, diciamo, di ricavi, è troppo ancora legato alle grandi plusvalenze che Sabatini è riuscito a fare sul mercato. 50 milioni sono nell'ultima sessione, sì, l'Oscar del mercato, assoluto, indubbiamente. Assoluto. Il problema è che questi ricavi non sono, diciamo, visti bene o benissimo dalla UEFA, perché tu devi portare ricavi strutturali. E la Roma è ancora una società che fattura 120 milioni più o meno a livello strutturale. Si potrà dire quanto l'Atletico Madrid, che l'anno scorso ha fatto i miracoli sportivi che ha fatto, però l'Atletico Madrid ha uno stadio e progetti già avviati di ristrutturazione e di riconversione di molte aree intorno allo stadio, cosa che per la Roma sono molto di là da venire. Quindi, diciamo, gli incrementi di fatturato che Pallotta ha portato a garanzia del risanamento dei conti per i giudici di Nyon non sono come dire delle assicurazioni sulla vita, cioè sì. Si vado sempre in Champions, costruisco lo stadio perché poi ricavi li vedrò tra un po'. Per di più lo stadio della Roma non sarà della Roma, lo ricordiamo, ma della società di Pallotta che lo affitterà, certo, alla Roma, quindi anche questo a Nyon, perché come Toira, diciamo anche, che non è lo sceicco, lo sappiamo, esattamente. Quindi io mi immagino che tra qualche mese si patteggerà tra Inter e Roma e gli organi contabili della UEFA una sanzione, diciamo, un po' paragonabile a quella di Paris Saint-Germain e City, sì. Però diciamo meno severa, e quindi si potrebbe andare, diciamo, da una multa a una sanzione di tipo economico legato al mercato, alla riduzione della rosa. Quindi sì, diciamo che a un range, anche più senso, perché se questi dici hanno problemi economici, do anche una multanza, e anche perché il criterio complicato. Diciamo la filosofia, e l'ha dimostrato la UEFA con Paris Saint-Germain e City, è quella di in prima battuta ti do una sanzione lieve, poi se non ti adegui il prossimo anno ti punisco, e quindi più che altro è un avvertimento sia per Roma che per Inter per rimettere i conti a posto. Si dovrà scegliere una strada che è quella di risanare i conti, tagliare un po' i costi, certo non al punto da ridurre la rosa tecnicamente a un livello tale per cui poi non riesce ad andare più in Champions. È chiaro. Tutti convocati. C'è qui con me ancora Marco Beninazzo dal Sole 24 Ore, in linea Marco da Pesaro invece. Buongiorno Marco, grazie per l'attesa. Grazie, buongiorno, grazie per la convocazione. Dica. Volevo un parere per quanto riguarda il duello Juve-Roma, perché la mia domanda è questa: dopo la partita di un mese fa abbiamo tutti sentito le dichiarazioni di Totti che la Juve deve fare un campionato a parte. Dopo sono arrivate quelle di De Santis nella Gazzetta che sì. Hanno dichiarato quello che ha dichiarato. E ieri, guardando su internet, Eshilko ha detto: lo scudetto andrà alla Roma a meno che non facciano i regali alla Juve. La mia domanda è questa: siamo ancora a pensare, dopo Calciopoli, che se c'è un episodio favorevole alla Juve è un regalo, mentre se c'è un episodio favorevole alla Roma è un errore? La prima. La seconda: un conto se lo dico io magari al bar con gli amici, un conto se lo dichiarano i calciatori. Quindi a livello culturale per me non siamo cresciuti. Quindi volevo capire un pochettino il vostro parere, se siamo ancora arrivati a pensare che se il campionato lo vince la Juve, allora García ha ragione dicendo lo vinceremo noi a meno che utili puntini. Sì. Mi pare un pochettino. No, a me sembra una strategia mediatica molto precisa quella della Roma. Io lascerei stare l'immediato dopo partita di Torino, perché tendenzialmente assolvo, c'è niente da assolvere. Non mi hanno fatto rabbrividire le dichiarazioni di Totti. García è stato molto pacato nel dopo partita. Poi evidentemente qualcosa è cambiato, la strategia mediatica è stata diversa, il disegno mi sembra abbastanza evidente, cioè quello di mettere pressione alla Juventus, a chi arbitra la Juventus, a chi arbitra la Roma stessa, quindi è semplicemente una strategia mediatica di questo tipo, che di quelle che Mourinho usa tutte le domeniche, no? Benigno, Marco Benigno. Beh, io credo che, guarda, in Germania non ho mai sentito qualcuno che si lamentasse sì. troppo, insomma, di favoritismi per il Bayern Monaco, e credo che ci siano. Sì, per una questione come di, ci sono per il Real sudità, Madrid, esattamente, come ci per, sono il Barcellona, questo è evidente. Però devono, diciamo, fanno parte del circuito mediatico e ce le teniamo. È triste, insomma, che un movimento calcistico italiano che ha 8 miliardi di problemi stia per un mese e mezzo a discutere di questo, e lo capisco. Sì, sì. Ma anche perché ci si dovrebbe fermare al quindicesimo giorno e passare avanti. Impossibile. Saluto e ringrazio Vincenzo Pincolini. Ciao Vincenzo. Ciao a voi. Grazie, buona grazie per essere con noi. Vincenzo Pincolini, grazie a voi. Conoscete tutti, adesso tornate a lavorare con la Nazionale, preparatore delle nazionali giovanili, no? Certo, certo. Ti diverti? Ma è un bel modo di vedere anche la crisi del calcio, è un bel modo di vedere il calcio da dentro, perché noi abbiamo un punto di vista chiaramente riferito a giocatori che vengono da tutte le società, a diversi tipi di gestione dei ragazzi stessi. Sì. E quindi, per dire, c'è anche modo di capire quali potrebbero essere certi aggiustamenti, insomma, sì, per far sì che questo calcio nostro fosse un po' più in evidenza rispetto a tanti calcio stranieri. Io sono molto curioso di chiederti un po' di cose, ma prima voglio farti sentire, sentiamo insieme cosa ha detto Llorente, che prima abbiamo sentito cantare, adesso lo sentiamo dire una cosa invece parecchio interessante, questa. Dices que en Italia los entrenamientos son más duros, os hacen trabajar con pesas y... Sí, sí, he notado que, bueno, sobre todo trabajan mucho más el tema del gimnasio, ¿no? Están acostumbrados a darle duro y bueno, es un cambio, ¿no? Allora, spagnolo comprensibile, gli è stato chiesto, è vero che in Italia si allena poco, e lui dice no, qui si lavora duro soprattutto in palestra, soprattutto con i pesi. Questo è un vecchio tema, ho citato prima Mourinho, anche Mourinho aveva avuto da dire sul fatto che molti giocatori dell'Inter andassero a lavorare in palestra certe volte per i fatti loro, eccetera, eccetera. Questo è un tema. Un altro lo ha lanciato un altro spagnolo della Juventus, cioè Morata. Non solo economico, sino che... que a lo mejor pues se valora más lo de fuera. A mí me está pasando ahora, por ejemplo, que me están valorando mucho por ser de fuera. No sé si es que es más exótico para la gente o más atractivo, pero pasa también en muchos trabajos que se va mucha gente de España que vale muchísimo como trabajadores y viene gente de fuera y luego triunfan también para España. Allora, sono dovuto andare via dalla Spagna perché lì ai giovani spagnoli non viene dato spazio. Ma va? Vincenzo Pincolini, da dove vuoi partire? Dall'allenamento o dai giovani spagnoli che non hanno spazio in Spagna? Ma tutte e due. Guarda, quello dell'allenamento io penso che va affrontato da due punti di vista diversi. Mi sembra che avessimo già avuto occasione di parlare. Sì. Io penso che la palestra in senso generale sicuramente può servire se tu la prendi dal punto di vista della prevenzione, dei lavori per far sì che il tuo fisico diventi più resistente agli stress. È diverso il discorso invece di chi va in palestra, purtroppo questo è un vezzo non del calcio ma di tutti gli sport attualmente, dove si scambia il grosso, il muscolone, quello per i tatuaggi, con il muscolo che serve per lo sport. Sì. Quel tipo di costruzione lì nello sport non serve a nulla, è purtroppo un po' una moda, un po'... Ma vale anche per i calciatori professionisti? Ma certamente, vedere ad esempio bicipiti e tricipiti enormi sono poi masse che vanno spostate, vedere enormi pettorali sono masse che vanno spostate, e tutto questo è a discapito di quello che può essere la rapidità e la potenza del gesto. Nell'atletica leggera o nel pugilato tu sei terrorizzato da mettere su chili, perché poi li devi trasportare oppure devi salire di categoria. Certo. Cioè nel calcio dovrebbero, una volta lo slogan era forti e magri, adesso invece è per dire, si pensa che forti sia sinonimo di grossi, hai capito? Questo è un equivoco che nasce quando tu vai in palestra da solo, vedi che ormai la cultura ti porta verso la costruzione di questi muscoli che si vedono, ma questo con lo sport non c'entra niente, zero. Certo. Ti serve una resistenza maggiore di certi muscoli, ti serve una capacità di usare i muscoli che hai in un certo modo tutti insieme, cioè che poi è legato anche al discorso della coordinazione e delle abilità. E lì attenzione, perché ci porta proprio anche a un discorso molto italiano che va molto anche su come sono allenati i giocatori molto giovani, sulle specializzazioni. In Italia i problemi ce li abbiamo, ma anche la natura di questi problemi, la radice, si può anche identificare. Sì, sì. Marco Benazzo voleva farti una domanda. Sì, una curiosità, perché spesso mi trovo a parlare insomma con dirigenti calcistici, e qualcuno mi diceva che uno dei problemi delle giovanili in Italia è che mediamente i giovani italiani si allenano la metà o addirittura comunque molto meno di pari età di altre, sì, di altre nazioni o comunque delle big europee. Volevo chiedere a Pincolini se è vero, insomma, se è tuttora una realtà e se è il problema per cui i giovani italiani fanno più fatica a venire fuori. Noi abbiamo su questo diverse statistiche, diverse conoscenze. Ad esempio, chi conosce il calcio, diciamo, fino alla categoria allievi il ragazzo italiano, il talento o non il talento, si allena come negli altri paesi, una volta al giorno, quasi tutti i giorni della settimana. Quando passiamo alla categoria primavera, dove i giocatori spesso, soprattutto i migliori, vengono ad essere in balia fra la primavera e la prima squadra, per molti di noi si cerca troppo il risultato della partita, lasciando andare quello che dovrebbe essere l'obiettivo di costruire il giocatore, perché siamo nell'età, nel momento sensibile migliore. Pochi lavori particolari, ma anche tecnici di coordinazione, di proprio specifici, potrebbero esaltare quelli che sono i nostri talenti. Purtroppo in quel periodo lì all'estero ci si allena di più, ma io vi faccio un esempio diretto, sono con la nazionale Under 19. Noi in questa nazionale abbiamo un po' di tutto, abbiamo giocatori che giocano in squadre di serie B per dire, e che fanno una o due volte alla settimana il doppio allenamento, fanno la domenica diciamo la partita anche se non c'è quasi più, il lunedì riposo, martedì 1, mercoledì 2, giovedì spesso 2, venerdì sabato e poi la partita. E ci sono ragazzi invece della squadra, delle squadre primavera che fanno la partita non sempre, perché casomai vengono chiamati in queste panchine lunghe che abbiamo in Italia adesso, che per noi sui giovani sono un grosso disastro, e che quindi sono sempre in attesa di sapere tra una squadra e l'altra, e alla fine fanno molto molto meno allenamento, si allenano casomai le prime giornate della settimana con la squadra primavera, poi vanno a preparare la partita con la prima squadra, non giocano mai. Ci sono giocatori, ad esempio ricordo, tanti nomi li possiamo fare, l'anno scorso Cristante arrivò alla fine dell'anno, che noi che tenevamo i minutaggi per seguire i ragazzi che erano nell'ambito delle nazionali, aveva giocato, non aveva quasi mai giocato, per provare 80 minuti, o dovevi venire quando veniva con noi in nazionale, o dovevi andare ai periodi ancora estivi. Quindi è chiaro che un giocatore così fa fatica a crescere, e solitamente in queste situazioni ci sono i più talentuosi. Sì, questa è la verità. Il problema quindi è individuare una soluzione. Potrebbero essere per esempio le squadre B, per le quali io insomma, certo, propendo. Però, per dire, c'è una scorciatoia ancora più veloce, che è mandarli a giocare fra la Serie C e la Serie B, eventualmente casomai in società dove sappiamo che ci sono degli allenatori adatti a seguire dei giovani. Io sì, penso che finita la categoria allievi tu possa fare un anno di categoria primavera e poi devi già entrare. Anche perché Vincenzo tu mi insegni che un giocatore migliora giocando con i grandi, non nelle categorie giovanili, perché quello è un altro sport, certo. E poi però deve giocare, che sia in Serie B, in Serie C o in Lussemburgo, deve giocare, quindi questo è il discorso. No, per dire, volerlo mandare per forza in una squadra più impegnativa dove casomai fa più fatica a trovare spazio. Per dire, la categoria sicuramente ti aiuta, però la cosa che ti aiuta di più è veramente essere chiamato a dei ritmi diversi, a delle responsabilità diverse, a tutta una serie di cose che ti fanno crescere. Poi quando andiamo all'estero vediamo che a 18-19 anni tanti ragazzi giocano anche in giro per le nazionali. Esatto, ma io ti volevo chiedere ancora questo, dammi un secondo che ho il traffico in linea, poi chiudiamo con te Vincenzo Pencolini con questo discorso. Cioè, ma davvero i giovani italiani in Italia non vengono fatti giocare perché non piacciono agli allenatori, perché gli allenatori non si fidano, per queste ragioni, o ce ne sono delle altre? Tutti convocati. Allora Vincenzo Pincolini, spiegami sta storia. Morata dice in Spagna i giovani spagnoli non trovano spazio, in questi giorni è tutto un urlare, non giocano i giovani italiani in Italia eccetera. Io sono contro protezionismo e sono dell'idea che nel massimo campionato professionistico debbano giocare quelli bravi, che siano italiani di un altro posto non mi importa molto poco. E io credo che, per dire, ci manchi proprio in Italia il coraggio di lanciare questi giovani nei campionati soprattutto inferiori. Vogliamo tenerli, anche perché è diventato fin troppo importante fare risultati in categorie come la primavera. Noi che andiamo a vedere la primavera quasi tutte le settimane vediamo giocatori che sono già pronti per fare le categorie, dico la B ma dico anche la A, che però sono tenuti dalle grandi squadre nelle squadre primavera perché c'è la voglia di vincere il campionato, la Coppa Italia, per giustificare, per dire anche l'allenatore non dovremmo giudicarlo da quanto vince in categoria primavera, dovremmo tornare a giudicarli per quanto fanno crescere i giocatori, sì, a prescindere dai risultati. E chiaramente sono tutte cose che spesso fa loro frizione. Ma tu sei favorevole, saresti favorevole? Beh, un accordo è stato raggiunto, rose più ridotte in Serie A nel prossimo futuro, lo renderà ufficiale la Federcalcio il 20 di novembre, si arriverà a rose di 25 giocatori più 8 provenienti dal settore giovanile, non c'è il discorso della eleggibilità in nazionale perché era discriminatorio e io condivido il fatto che non sia stato portato avanti. Tu saresti stato favorevole ad una protezione dei giocatori italiani, ad un protezionismo nei confronti dei giocatori italiani? Guarda, io penso che noi nel nostro calcio possiamo fare talmente tanti passi avanti dal punto di vista culturale, dell'avere idee uguali. La Germania, il movimento tedesco, ha fatto dei grossi passi avanti, parliamo di 10 e più anni fa, perché la federazione ha cercato di convincere tutte le società a fare determinate scelte. Questo è un po' quello che vorrebbe anche fare la nostra federazione. Sicuramente cozza contro un potere che è quello delle leghe, che è quello dei club. Però per dire, se noi fossimo capaci di accompagnare questi giovani nella loro crescita, cercando non troppo presto la specializzazione, senza incominciare a fare dei campionati importanti a 9, 10, 11 anni che fanno già sì che i ragazzi arrivino poi stanchi a dopo. Se ci fosse tutta un'armonizzazione di queste cose, io dico che anche mettere tutti i limiti di età, ma dai dilettanti ai professionisti, mettere tutta la media, ad esempio in Serie C diventano matti perché devono fare le formazioni con la calcolatrice per prendere gli aiuti, cioè queste sono cose nostre, le panchine lunghe sono cose nostre, noi dobbiamo veramente fare delle scelte al di là di quella che è la situazione, per dire, di un club piuttosto di un altro, delle ambizioni di un altro, per far crescere questi ragazzi. E se ci mettiamo tutti attorno a un tavolo con una federazione che ha voglia di fare queste cose, secondo me qualche passo avanti, anche senza arrivare a dei regolamenti che possono essere ok o non ok, dobbiamo trovarlo lo stesso. Io tante volte dico che per migliorare il calcio dovremmo chiudere le scuole calcio, lo so che faccio una provocazione, però per dire, ti dico una cosa di cui sono quasi convinto, se i ragazzini facessero tutti gli sport del mondo invece che specializzarsi a 5 anni, avremmo dei vantaggi. Assolutamente d'accordo. Questo è un fatto culturale, non è un fatto di regolamento. Due dati sulla Germania che giustamente Vincolini indicava come modello: sono stati investiti quasi 500 milioni in questi anni nelle scuole calcio, in parte anche sono arrivati soldi dal governo federale. Poi la Germania, campione del mondo, è una squadra e una nazione che ha sicuramente i giovani più interessanti, non ha limiti al tesseramento di extracomunitari. Certo. Perché giocano quelli bravi. Giocano quelli bravi, devono giocare quelli bravi come fra i dilettanti, se quelli che hanno più passione a 40 anni facciamoli giocare lo stesso senza fare questi mercati doppi paralleli che uno è bravo per 6 mesi fino a quando non è del 90, non compie il 16esimo anno, il 17esimo, che poi non vale più niente. Cioè noi siamo sempre stati campioni del diritto, però a volte ci siamo incartati da soli e molte cose in questo calcio sono passate per una via di questo genere. Grazie Vincenzo, buon lavoro. Grazie, parti. Buona giornata. Ciao, buona Vincenzo notizia. Piccolini, ciao. Grazie davvero. Daniele Mantova, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io vorrei parlare di Olimpia Milano. Sì, non dica. Non vorrei paragonarla a quella che ha vinto a Losanna la Coppa dei Campioni, nemmeno a quella che ho visto in primavera vincere gara 3 a Milano, un po' sofferto. Però l'altra sera con Reggio Emilia è stata una pena assoluta. Sì. Io mi chiedo, speriamo che Gentile resti buono per tanto tempo, e soprattutto mi chiedo, ma hanno ausilio che fa campagna acquisti per l'Olimpia? Ma chi è andato via Lanford e ha preso quel cipollotto nero lì dietro la testa col barbone, fenomeno lituano, che non ha preso neanche il ferro in 2 tiri da 3? Beh, Kleiza, io lo aspetterei. Linas Kleiza, vabbè, Kleiza, insomma, è testato, sappiamo quanto vale. Quanto al resto, insomma, Lanford è un giocatore molto discusso, molto chiacchierato, molto condizionante, certamente con un grande talento. È stata scelta una strada diversa, non è detto che sia sbagliata. Al momento le indicazioni sembrano quelle, però consiglierei un altro po' di pazienza per Olimpia Milano, certamente in campionato, dove non può giocare Hackett peraltro, mentre stasera si gioca una partita contro i polacchi del Turo a Milano in Eurolega, e quella sia da vincere a tutti i costi. Ho un minuto per chiedere a Marco Berinazzo, no Marco, è meglio che ne parliamo un'altra volta della storia delle scommesse. Beh sì, anche della... perché vedremo a breve interessanti sviluppi, immagino, su questo fronte. C'è Tavecchio, giusto per lasciare lo zuccherino e la voglia degli ascoltatori, che sta cercando soldi per il calcio, sì. Potrebbero arrivare dal mondo delle scommesse, sì, un contributo da almeno 80 milioni all'anno, e lasciamo poi in questo rapporto un po' incestuoso con il mondo delle scommesse. Lì ci si muove tra soldi, morale, però a quel punto dovresti togliere il diritto alle squadre di farsi sponsorizzare. Certo. Da aziende che operano in questo settore. Cosa che non avviene, ma ne parliamo certamente nei prossimi giorni. Grazie Marco. Grazie a voi, a presto a tutti. Grazie Marco Berinazzo, Franco Piantinina, il nostro autore, Roberto Scaltritti in regia, con Alessandro Marco Tulli in redazione. Ciao, ci sentiamo domani. Ma che buongiorno, allegri. Vi presento il quintetto di partenza della squadra dei Looney Tunes. Altezza 0,75, il fenomenale del continente australe, il diavolo della Tasmania, nel ruolo di ala piccola, la rubacuori della lunetta, Lola Bunny. In posizione di ala alta, lo starnazzatore dal tiro implacabile, Daffy Duck. Grazie! Nel ruolo di guardia, vice capitana della squadra dei Looney Tunes, Max Bunny. Dulcis in fundo, in veste di allenatore e giocatore della squadra, altezza 1,98 m, proveniente dall'Università del North Carolina, il signore del parquet, su altezza aerea, Michael Jordan. Tutti convocati.